Αρχίζει να πάω. Πάει σε μαφή για φιλιάστρο. Πάει σε ατιουμπάμα εφήμερα. Κουτένουν πάγια βανί. Είμαι τένον σονία. Σον αβέρνει τη διέμπα. Μαζί βόνα τα κάτανα. Δίμα και λεγιαβή. Ciao a tutte, ciao a tutti. Questa è una nuova puntata di Battiture, sguardo di critica radicale al sistema carcere. Si balena, si una rosa campogna, tiene a faccia rizzoccola, con te non voglio venire, viva te non so niente, sono a perdita di tempo, ma si vuole da catena, dimmi che lo chiavi. Come ogni mercoledì siamo in onda su www.radiasilo.it dalle 19 per parlare delle notizie che ci sembra più interessanti dare sul sistema carcere in Italia e all'estero. E comincio sperando che la voce mi regga, perché sono davvero molto raffreddata. Cominciamo subito con la prima notizia. Ne abbiamo parlato molto a questi microfoni, abbiamo avuto anche diversi contributi. E riguarda la notizia della rivolta dell'8 marzo scorso al carcere di Sant'Anna a Modena. Torniamo a parlare ancora una volta, perché in realtà due giorni fa, il 7 giugno, al Tribunale di Modena si è svolta un'udienza in cui veniva richiesta l'archiviazione delle indagini relative ai decessi di 9 persone detenute, che come sappiamo sono avvenute lo scorso anno. Ne abbiamo parlato numerose volte. Sappiamo anche bene che non sarà in un'aula di tribunale il luogo in cui si avrà giustizia per la morte di queste 9 persone. E purtuttavia cerchiamo comunque di seguire quelli che sono gli aggiornamenti riguardo anche le vicende giudiziarie. Ed ovviamente vergognoso che venga richiesta l'archiviazione per dei decessi così terribili. A questa archiviazione ovviamente si sono opposti tre legali un primo avvocato che segue il padre e fratello di una delle 9 persone che sono decedute, un avvocato invece per il garante nazionale delle persone detenute e un terzo legale per l'associazione Antigone. Il risultato dell'udienza è sospeso, insomma, perché il GIP si è riservato di decidere se archiviare o meno queste indagini. Intanto sono stati ascoltati gli avvocati, e dalle loro dichiarazioni, hanno cercato di porre l'attenzione su quelle che secondo loro sono 2 grandi temi all'interno di questa vicenda. Il primo tema è la modalità con cui è stato conservato il metadone. Secondo appunto gli avvocati, il metadone era presente in larga scala e era troppo facilmente accessibile da parte delle persone detenute che ne erano dipendenti. Il secondo tema su cui hanno battuto è il ritardo dei soccorsi, soprattutto nei confronti di una di queste persone detenute, decedute, deceduta diverse ore dopo l'assunzione del farmaco, e il ritardo nei soccorsi ha appunto impedito di salvargli la vita. In questa opposizione da parte degli avvocati alla richiesta di archiviazione si parla anche di dubbia gestione dei soccorsi e di autopsie eseguite a metà. La dichiarazione ufficiale è proprio che lo Stato aveva in custodia i detenuti e lo Stato avrebbe dovuto fare di tutto per tutelarli e garantire la loro incolumità. Mentre si svolgeva l'udienza, il Comitato Verità e Giustizia, che è un comitato che si è, alcuni mesi dopo le vicende del Sant'Anna si è costituito, era lì presente, davanti al tribunale in una manifestazione, e chiedevano appunto che, nel giro di un anno era impossibile pensare di archiviare le indagini su così tanti morti e chiedevano che, il tribunale facesse, diciamo, luce, giustizia, verità su questa storia. Intanto hanno anche dichiarato che sarà avviata una raccolta fondi per riuscire a rimpatriare una salma in Tunisia, salma che al momento invece è seppellita in Italia, in quanto a causa dell'emergenza Covid non questo rimpatrio della salma non è potuto avvenire e appunto i familiari di questa persona in Tunisia aspettano ancora che possa ritornare la salma della persona purtroppo morta in carcere in Italia. È ovviamente una dimensione quella della richiesta al tribunale che sia fatta luce, che continueremo a seguire pur avendo tutte le perplessità dovute sul caso, a partire dalle autopsie di cui in realtà si è parlato anche in occasione di questa udienza, perché queste autopsie sono state, diciamo, gli esiti di questi esami che sono stati fatti sulle salme e che hanno confermato, come sappiamo, che i decessi siano stati causati da un'overdose di metadone, da un'overdose di psicofarmaci. Personalmente, insomma, a noi lasciano molto, molta perplessità. Pur tuttavia, anche gli avvocati, pur nella loro opposizione, pur partendo da questi esami autoptici, hanno, diciamo, fatto presente che, in ogni caso in questi esami era stato escluso ogni nesso, diciamo, di causalità tra il decesso delle persone e la gestione che c'era stata, sia da un punto di vista penitenziario che da un punto di vista sanitario. E hanno sottolineato anche la questione, molto dibattuta in quest'anno, dei trasferimenti che ci sono stati presso altri istituti penitenziari senza, che prima fossero fatti, esami di natura sanitaria o null'altro, e quindi senza che si possa in qualche modo escludere, l'eventualità che le cause di morte siano state altre, e senza quindi poter automaticamente anche escludere che la responsabilità debba gravare anche su altri tipi di gestione, non solamente sulla questione dell'assunzione dei farmaci. Quindi quello che hanno chiesto gli avvocati è che le indagini appunto non siano chiuse e che ci sia un ulteriore approfondimento, anzi tenendo anche presente la questione dei trasferimenti, che tra l'altro noi sappiamo sono avvenuti, sono stati trasferiti anche nei giorni successivi, cioè anche il 10 marzo, diciamo, quando la questione della rivolta, l'emergenza, diciamo, dettata alla rivolta era in qualche modo cessata. E nel documento presentato dagli avvocati infatti si sottolineano anche degli episodi che vengono ritenuti particolarmente significativi. Per esempio, per quanto riguarda il decesso di una delle persone detenute, viene riportata una consulenza tecnica che è stata redatta da un consulente nominato, in cui questo consulente precisa che non è stata compiuta autopsia su questo cadavere, e mentre è palese che questa persona poco prima di morire avesse subito un trauma contusivo al volto, trauma contusivo che questo consulente definisce di non scarsa entità. E quindi sottolinea che probabilmente potrebbe esserci stato anche un trauma encefalico che potrebbe aver causato una commozione cerebrale oppure anche un'emorragia cerebrale, e questo potrebbe essere la causa di un decesso avvenuta anche ad ore, diciamo, trascorse diverse ore. E il consulente sottolinea che questo tipo di decesso potrebbe avere dei sintomi che sono confondibili con quelli dell'intossicazione farmacologica, ma senza un'autopsia fatta sulla salma non si può dare una risposta certa a questo quesito. E tra gli episodi, diciamo, sottolineati c'è anche una questione riguardante il decesso di un'altra persona detenuta, in cui questo consulente sottolinea che l'apparenza, diciamo, modesta delle lesioni sulla pelle possano lasciare il dubbio che vi sia stata anche una successione di colpi sul corpo tale da produrre delle lesioni cerebrali, e queste lesioni cerebrali anche in questo caso nel giro di qualche ora potrebbero evolvere verso il peggio. Ma anche in questo caso l'esame autoptico non ha indagato sulla testa della salma della persona, per cui anche in questo caso il dubbio non può essere fugato. Parliamo adesso di una notizia di pochi giorni fa. Le notizie che purtroppo arrivano dalle carceri italiane non sono mai particolarmente confortanti. In questo caso, pochi giorni fa, al carcere di Terni, tre persone detenute, mentre stavano utilizzando delle bombolette a gas per poter cucinare, tra l'altro per poter cucinare tutte e mangiare tutte e tre assieme, hanno riportato delle gravi ustioni dovute allo scoppio di queste bombolette di gas. Le ustioni sono davvero molto gravi, in modo particolare quelle che riguardano una persona di soli 34 anni che in condizioni gravissime è stato trasportato immediatamente all'ospedale più vicino e lì è entrato direttamente in terapia intensiva. È stato operato d'urgenza, un intervento chirurgico che sostanzialmente ha tentato in qualche modo di ricostruire le sue mani, che a quanto pare sono state direttamente coinvolte dallo scoppio di queste bombole, e purtuttavia, diciamo, non è noto se l'intervento sia effettivamente riuscito e neppure se le condizioni generali della persona siano migliorate o meno. È difficile anche riuscire poi a trovare delle notizie successive a questa vicenda tristissima, vicenda tristissima che ovviamente è legata non al, al cattivo funzionamento delle bombole o al, alla cattiva gestione da parte delle persone di queste bombole, ma ovviamente è legata alla violenza del carcere anche in questo caso, perché è inconcepibile pensare che delle persone detenute non abbiano neppure il diritto di poter scaldare qualcosa o cucinare qualcosa, magari utilizzando delle semplicissime piastre elettriche, piastre di induzione molto più sicure, debbano invece ricorrere a dei sistemi spesso anche grossolani che li collegano a, a delle bombolette a gas che ovviamente possono facilmente scoppiare o comunque creare problemi. Anche in questo il carcere esprime tutta la sua violenza. Riprendiamo invece le parole di un post su Facebook girato pochi giorni fa, una cosa che facciamo abbastanza di frequente perché le parole sono quelle di Dana, di cui abbiamo parlato più volte all'interno della nostra trasmissione e che ci permettono in qualche modo di continuare a parlare anche se fortunatamente insomma non è più all'interno del carcere ma ai domiciliari. Comunque ci permettono di parlare, di continuare a parlare di come il sistema violento, appunto come anche nel caso di prima, continui a esercitarlo in tutte le forme più sottili. Poche ore fa, infatti, Dana in un post ha reso noto che il Tribunale di Sorveglianza, il suo tribunale di sorveglianza, ha bocciato una sua richiesta che aveva presentato in cui chiedeva semplicemente di far entrare in casa il veterinario di Tigro, uno dei suoi due gatti che non sta molto bene e che quindi ha bisogno di un'urgente visita veterinaria. E sempre lo stesso magistrato ha affermato che ha bocciato la richiesta ed ha affermato che Dana debba invece trovarsi un veterinario a Torino e portarcelo. Non è ben chiaro se questa richiesta è stata bocciata perché a quanto pare il veterinario è valsusino e quindi questo lo collega comunque a tutta la questione Notav, ma è ovvio che c'è un accanimento davvero molto violento e addirittura che arriva a colpire anche l'animale domestico e non solo direttamente lei. Vogliamo però sottolineare che è importante dare voce a queste parole di Dana e contemporaneamente, quando parliamo di accanimento, in realtà non pensiamo che l'accanimento avvenga solo ed esclusivamente nei confronti di Dana. Non è un caso singolo, ma di situazioni orribili come quella che sta vivendo lei ne conosciamo purtroppo a bizzeffe. E per questi e altri mille motivi noi non smetteremo mai di dire che il carcere andrebbe non riformato, non rivisto, ma semplicemente abolito. Ed è importante che anche altre persone, che siano celebri o meno, portino avanti questa idea dell'abolizione del carcere. In realtà, stranamente, ultimamente, io dico stranamente perché sono sempre pessimista, ultimamente comunque si sente talvolta più di frequente, anche se sempre troppo poco, parlare della necessità dell'abolizione del carcere. Mi ha stupito che ultimamente, negli ultimi giorni, stia circolando un articolo a firma, diciamo, illustre, perché è di Taormina, che tutti conosceranno, che parla proprio della necessità dell'abolizione del carcere. Tra l'altro, a queste parole si sono unite anche altre parole perché pochi giorni fa è stata fatta una sorta di maratona a Bologna, così per sostenere le persone detenute a cui hanno partecipato anche qui diverse persone famose, da Vasco Rossi a Bergonzoni. Vasco Rossi stesso ha lanciato un messaggio dicendo, parlando direttamente alle persone detenute, dicendo tenete duro. Certo, non tutti e tutte in quell'occasione si sono espresse, almeno per non ho seguito la maratona, sono sincera, ma me la sono risparmiata, ma ho letto un po' di dichiarazioni riportate. Certo, non tutti, non tutte si sono espresse nei confronti della necessità dell'abolizione del carcere. Pur tuttavia, qualche voce rispetto all'idea che il carcere non sia un elemento necessario alla nostra vita sociale, si è espressa. Mi piace sempre ricordare una frase di Angela Davis che sintetizza un po' quella che è l'idea sulle prigioni. Angela Davis diceva che le prigioni non eliminano i problemi sociali, ma eliminano gli esseri umani. In realtà sia Taormina che anche questa maratona di cui parlavo prima, sia Taormina nel suo articolo che in questa maratona hanno fatto accenno alla situazione, anche di questa ne abbiamo parlato più volte a questi microfoni, di Patrick Zaki che continua ad essere recluso in Egitto e tra poco compirà addirittura 30 anni all'interno delle carceri egiziane. E anche Taormina ne parlava, dicendo che ci indigniamo tanto per le condizioni, giustamente ci indigniamo tanto per le condizioni a cui è sottoposto Patrick Zaki, ma che in realtà in Italia le carceri non è che siano proprio questa grande luogo di villeggiatura, e queste condizioni di disumanità che noi spesso non tolleriamo appunto per una persona rinchiusa in un carcere in Egitto, in realtà magari sono a pochi metri dalla nostra calda casa accogliente, e non, in quel caso non ce ne indigniamo molto. E sempre collegata alla situazione di Zaki, in realtà anche un'altra persona molto giovane è imprigionato dal febbraio scorso in un'altra ala dello stesso penitenziario, quindi è proprio a pochi metri da Zaki, ed è un'altra giovanissima persona, un connazionale di Patrick Zaki, Ahmed Samir Santawi, spero di averlo pronunciato bene, che allo stesso modo è rinchiuso all'interno di questo carcere senza, a 29 anni, senza alcun tipo di motivazione. E addirittura avrebbe dovuto sposarsi tra pochi giorni e invece è ancora incarcerato. Bene, è venuto il momento di ascoltare il primo brano di questa puntata. Noi di solito mandiamo spesso musica anche fresca, attuale. Questa volta non sarà così, mandiamo un pezzo direttamente dagli anni 90. Loro sono gli Shellac e il pezzo è Prayer to God. Shellac of North America. Catalog number TG211 CD. Audio compact disc. 44.1 kHz sample rate. 16-bit word length. Samples represented in 2's complement binary. 8 to 14 expansion. Set reproducer for reference level. 1000 Hz. one true God above, here is my prayer. Not the first you've heard, but the first I wrote. Not the first, but the others were a long time ago. There are two people here, and I want you to kill them. Her, she can go quietly, by disease or a blow, to the base of her neck, where her necklaces close, where her garments come together, where I used to lay my face. That's where you ought to kill her, in that particular place. Him, just fucking kill him. I don't care if it hurts. Yes, I do. I wanted to fucking kill him, but first make him cry like a woman. No particular woman. Let him hold out, hold back. Someone or other might come and fucking kill him. Fucking kill him. Kill him already, kill him. Fucking kill him. Fucking kill him. Kill him already, kill him. Fucking kill him. Fucking kill him. Kill him already, kill him. Just fucking kill him. Fucking kill him. Fucking kill him already, kill him. I'm fucking kill him. Fucking kill him. Kill him. Kill him. Just fucking kill him. Kill him already. Kill him already. Kill him. Amen. Ci sembrava bello leggere un breve pezzo che si intitola Diario dal carcere, vita e morte degli invisibili, che è stato pubblicato la settimana scorsa su un sito. Leggo. L'ultimo arrivato ha 70 anni e la parte destra del corpo paralizzata per un ictus che gli ha anche tolto l'uso della parola. Deve scontare una pena di 3 mesi per un reato risalente agli inizi degli anni 90 e l'ha scoperto quando è atterrato a Fiumicino dopo 20 anni che mancava dall'Italia. È andato ad occupare l'unica cella libera della sezione, chiusa da quando il precedente, tra virgolette, inquilino è stato trasferito all'obitorio. Coma diabetico, dice Fabrizio, che all'ora di pranzo, avendo notato il blindo ancora chiuso, è entrato per sincerarsi che fosse tutto a posto. Eppure, nella lenta routine della galera, a quella porta avrebbero dovuto bussare molti quella mattina, quantomeno la conta, l'infermiera, il portavitto. Si sarebbero accorti che da ore quel corpo era immobile, gelido. Anche la morte diventa ordinaria amministrazione in un luogo che pare un lazzaretto più che la sezione penale di un carcere. Poche celle più in là ci sono 2 persone che soffrono di epilessia con crisi quotidiane che le fanno stramazzare al suolo. È sempre Fabrizio, ex pugile professionista con nozioni di primo soccorso, a prestare le prime cure, in attesa che con calma arrivi un medico che si limita a rilevare i parametri vitali. Una situazione paradossale, tanto che spesso sono gli stessi agenti a chiedere a Fabrizio di intervenire, con tutti i rischi e le responsabilità che ne derivano. Parlare di cure, visite specialistiche o comunità di recupero è utopia. Proseguendo la passeggiata lungo il corridoio, si contano almeno 10 di ragazzi che assumono metadone, Subutex o altri surrogati degli stupefacenti per placare le crisi di astinenza. Ridotti come zombie, trascorrono la giornata in attesa della terapia e vivono in un'altra dimensione. Come il serbo che parla con i muri e guarda fuori da una finestra che vede solo lui. Malattie, dipendenze, povertà estreme, convivono in questo non luogo deputato alla riabilitazione dei derelitti che lo abitano. L'olandese trascina lentamente il peso dei suoi tumori e fatica a tenere a bada i tremori del Parkinson. Continua da anni a ripetere che non vede l'ora di essere rimandato al suo paese per potersi curare. Non vuole morire in carcere. Anche il rumeno aspetta l'estradizione per scontare il residuo della pena in patria, dove dice «almeno posso lavorare». Turiddu, invece, dopo 2 decenni di galera, avrebbe il diritto di chiedere un permesso di qualche ora, ma non ne vuole sapere. Lì fuori non ha più nessuno, e nemmeno dentro c'è stato qualcuno che si sia accorto di lui e lo aiuti a superare la paura della libertà. Lungo il corridoio si incontra Tapparella, alla perenne ricerca di un ciuffo di tabacco e qualche cartina, un po' di caffè, un francobollo, una busta. Qualcun altro si è venduto le scarpe per poter fumare e ora aspetta che il prete, sfiancato dalle suppliche, gli carichi sul conto qualche euro. In carcere si aspetta sempre, tra domandine, mancate risposte, tempi che non si compiono mai, senso di impotenza e incertezza continua. La prigione che raccoglie i rifiuti umani della società rischia di restituire alla libertà uomini non pronti ad affrontarla, perché la galera insegna una sola cosa: come sopravvivere alla galera stessa. Di lavoro, formazione e studio, nemmeno l'ombra. Un vuoto acuito dal doppio lockdown, rappresentato da sbarre e pandemia, che da oltre un anno ha ulteriormente isolato gli abitanti del pianeta carcere, ai quali non rimane altro che la briscola. In alternativa c'è la televisione, perennemente accesa e sintonizzata sui notiziari. Pare che tra le riforme imposte dall'Europa come condizione per erogare i fondi del Recovery Plan ci sia anche la riforma della giustizia, argomento che desta l'interesse anche di coloro che non perdono una puntata di Uomini e Donne. Ma quale riforma, sentenzia quello della cella 23, spegnendo gli entusiasmi di quanti prevedono cambiamenti epocali e misure straordinarie per ripristinare la legalità nelle carceri? Si dice che sia un giornalista, ma di lui si sa poco, se ne sta sempre in disparte, parla poco e scrive in continuazione, accumula appunti e legge, un tipo strano. A lui si rivolgono in molti, italiani e stranieri, che gli chiedono di leggere e spiegare il contenuto di un documento. Altri hanno bisogno dello zio per scrivere un'istanza, un sollecito o una lettera all'amorosa. Dice che non servono mirabolanti riforme per far funzionare il sistema delle pene, basterebbe applicare le norme esistenti. Protetti dalle alte mura che separano i buoni dai cattivi per non turbare le coscienze, per anni abbiamo fatto finta di non vedere quell'umanità nascosta, negata, segregata. Ma ora il degrado ha presentato il conto e non possiamo più voltarci dall'altra parte. Un giorno quella gente lascerà il carcere. È meglio accogliere cittadini recuperabili o relitti senza speranza. Allo stato attuale forse ha ragione il turco, che da anni insiste per essere estradato nelle galere di Erdogan e ripete come un ossesso: carcere italiano no buono, Turchia bene, mi mando il volo dell'aereo che prima o poi lo riporterà nelle sperlonghe di Istanbul. Veniamo ora a parlare di Cesare Battisti, ne abbiamo parlato più volte a questi microfoni, ma è doveroso riparlarne ancora perché, in base a una dichiarazione che è arrivata da parte dei suoi familiari, Cesare è di nuovo in sciopero della fame da diversi giorni. Noi sappiamo che da mesi è detenuto in un totale isolamento in un'ala di un carcere a Rossano Calabro e gli altri detenuti sono terroristi islamisti. Questa è la motivazione per cui lui viene detenuto in isolamento e Cesare ha chiesto più volte il suo trasferimento. Tra l'altro ha dichiarato di avere ricevuto delle minacce di morte, non riesce a vedere i suoi parenti, è incarcerato da 40 anni. e chiede di poter uscire da questa situazione che lo sta distruggendo. Ha scritto ancora una volta una lettera, cosa che fa molto spesso, alle autorità competenti, sottolineando che il suo totale isolamento dura da ben 27 mesi, e ha parlato dello sciopero della fame. La lettera è abbastanza breve e inizia, scrive molto bene Cesare Battisti, quindi inizia in un modo molto efficace, diciamo. Scrive: ho messo su tutto quello che potevo per scacciare il freddo dalle mie ossa. In effetti la giornata fuori è soleggiata e in tal caso il tempo qui non può essere così sgradevole, ma sono i nervi. In assenza di calorie è un'improvvisa sensazione di abbandono quella che mi fa rabbrividire, ma se voglio continuare a crederci, a resistere alla fame, devo spegnere questa sensazione in tempo. E continua a parlare della sua situazione all'interno del carcere, che lui definisce come Guantanamo Calabro, in cui dice: non vorrei che si dicesse che fanno morire di fame qui a Guantanamo Calabro i prigionieri, ma sono io che decido di digiunare. Facciamo per un momento un tuffo all'estero, ma poi torneremo in Italia, perché torneremo per parlare ancora di CPR. Ma andiamo per un attimo in America, perché la notizia è piuttosto frustrante, diciamo. Riguarda lo stato dell'Arizona. Ultimamente stiamo parlando abbastanza spesso di quelle che sono le condanne a morte decise dall'America. Ne abbiamo parlato poco tempo fa riguardo la sostituzione dell'iniezione letale nello stato della Carolina con la possibilità di essere di avere la propria esecuzione da parte di un plotone di esecuzione. E torniamo adesso a parlarne per quanto riguarda l'Arizona, perché l'Arizona ha deciso di far tornare la camera a gas. In Arizona si ripristineranno le esecuzioni tramite il Cyclone B. Il termine forse ci sembrerà di averlo già sentito qualche altra volta, perché in realtà è proprio lui il nome commerciale dell'acido cianidico, ed è il famoso gas micidiale con cui i nazisti eliminarono tutti quanti gli ebrei nei campi di sterminio. E mi diventa difficile persino parlarne, pensare che il Cyclone B ritorna, e ritorna di nuovo per le esecuzioni. La motivazione che viene data dallo stato dell'Arizona è la stessa che era stata data da parte della Carolina, ossia che mancano i farmaci che servono per il cocktail micidiale che porta all'iniezione letale, e quindi in mancanza della possibilità di, e questo viene attribuito al Covid, in mancanza di poter reperire questi ottenere questi farmaci per l'iniezione letale, allora si sceglie di ripristinare un trattamento come quello della camera a gas. Thank you. torniamo di nuovo in Italia perché volevamo dare notizia di quelli che saranno dei prossimi presidi che avverranno in questo fine settimana. Sabato 12 giugno alle 10.30 ci sarà un presidio di fronte alla casa di lavoro di Castelfranco Emilia, una casa di lavoro di cui abbiamo parlato anche in qualche puntata precedente della nostra trasmissione, perché è la casa di lavoro in cui è stato trasferito Belmonte Cavazza. Belmonte Cavazza, uno dei 5 coraggiosi detenuti che hanno avuto il coraggio di scrivere l'esposto, il famoso esposto riguardante la morte di Sasà Piscitelli, il loro compagno, all'interno del carcere Sant'Anna di Modena, di cui parlavamo anche prima, che da allora hanno subito una serie di vere e proprie ritorsioni, punizioni da parte dello Stato. Fra queste, Belmonte, ne avevamo parlato appunto a fine aprile, il 23 aprile ha ricevuto, dopo ben 19 anni di carcere e in attesa della scarcerazione, quindi di poter ritornare finalmente al mondo fuori, ha ricevuto invece la comunicazione di un'ulteriore misura restrittiva, questa volta appunto il trasferimento alla casa di lavoro di Castelfranco Emilia, una misura di sicurezza che risale addirittura al 2003. E così Belmonte non è uscito dalla prigione, ma è stato semplicemente trasferito alla casa di lavoro e sarà davanti a quelle mura che sabato 12 giugno si ritroveranno parenti e solidali per poter continuare a manifestare la loro solidarietà a Belmonte e a tutte quante le altre persone recluse. Altro presidio di cui volevamo dare notizia è invece domenica 13 giugno alle ore 11, è un presidio avanti al carcere di Vigevano e tutti i compagni, compagne solidali toleranno lì fuori da quelle mura del carcere di Vigevano, in cui sono stati anche abbastanza di frequente, per far sentire la loro solidarietà a tutte le persone prigioniere e in particolar modo a Natascia, che è stata da poco trasferita dal carcere di Santa Maria Capo Vetere a quello di Vigevano, trasferimento temporaneo dovuto al fatto che nei mesi di maggio e di giugno sono in corso le udienze che la vedono come imputata, la famosa operazione Scintilla, anche di questa abbiamo parlato più volte ai nostri microfoni, e quindi ha ricevuto questo trasferimento temporaneo al carcere di Vigevano. Probabilmente però tornerà nella sezione di alta sicurezza 3 del carcere, nella sezione di alta sicurezza del carcere di Santa Maria Capo Vetere, dopo essere stata nella sezione di alta sicurezza 3 del carcere di Piacenza. E come abbiamo detto anche in passato, all'interno del carcere di Santa Maria Capo Vetere viene riservato a Natascia un trattamento d'eccezione, totalmente arbitrario, che assomiglia veramente tantissimo al 41 bis. Ad esempio, non può avere più di 4 libri in cella, i CD sono vietati, ha solamente 2 telefonate al mese, ha pochissime videochiamate, i suoi pacchi sono aperti, sono rovistati, probabilmente qualcosa viene sottratta. Quindi è ovvio che il trasferimento che c'è stato dal carcere di Piacenza a quello di Santa Maria Capua Vetere è stato un trasferimento punitivo, un allontanamento da tutti i suoi affetti, un allontanamento dal suo avvocato, e appunto si ritiene che questo trasferimento al carcere di Vigevano sia solamente temporaneo. Bene, ci ascoltiamo ora il secondo brano di questa giornata, che di un gruppo italiano, gli Squarcicatrici. Il brano si chiama Zen Crust. Thank you. Torniamo in voce per parlare di una vicenda relativa al carcere di Monza. In questo caso si tratta di un procedimento penale perché la vicenda è accaduta nel 2019. Il 2 luglio è stata fissata questa udienza preliminare al Tribunale di Monza. Cinque agenti della polizia penitenziaria sono processati con accuse di vario titolo: lesioni aggravate, falso, calunnia, violenza privata, omessa denuncia. Adesso non le ricordo neanche tutte. In sostanza, ciò che è accaduto è che una persona detenuta all'interno del carcere da una settimana era in sciopero della fame, e la motivazione alla base dello sciopero della fame era la richiesta di essere trasferito dal carcere di Monza ad un'altra casa circondariale. La persona detenuta era stata presso l'infermeria del carcere monzese, quindi stava per essere riportata in cella, e in cella era riportata in barella perché da 7 giorni in sciopero della fame accusava già le prime difficoltà anche nel muoversi. Nel momento in cui stava per essere riportata in cella, è stata colpita da un agente con dei pugni, con degli schiaffi, mentre altre persone lo tenevano fermo. Poi questi agenti sono riusciti a farlo cadere dalla barella una volta che erano arrivati in cella, e lì lo hanno lasciato dolorante, gli occhi lividi, il volto tumefatto, addirittura anche un dente rotto a causa della violenza con cui è stato picchiato. Subito dopo è stato anche mandato in cella di isolamento perché è stato costretto a dichiarare che era stato lui ad essere aggressivo nei confronti degli agenti della polizia penitenziaria, e per questo motivo aveva avuto questo trasferimento punitivo all'interno della cella di isolamento. Alcune telecamere che sono all'interno dei corridoi del carcere di Monza hanno ripreso la scena, per cui c'è un video dell'accaduto, e in questo video si vede l'agente che colpisce la persona detenuta. Ma nonostante questo, nelle fasi preliminari del processo, la difesa degli imputati ha sostenuto che le telecamere non hanno ripreso per un cono d'ombra che c'era nella registrazione il momento immediatamente precedente a quello in cui il detenuto è stato picchiato, e in quel momento immediatamente precedente si sarebbe svolta l'aggressione da parte della persona detenuta nei confronti delle forze dell'ordine. Such individuals would be linked by powerful bonding lines not readily available to the common awareness. Others might observe such linkages and plot the consequences, but the linked ones would dance to unconscious music. Veniamo ora a parlare dei centri di permanenza per il rimpatrio, una situazione di cui abbiamo parlato, una vergogna di cui abbiamo parlato più volte a questi microfoni, anche ultimamente. Ovviamente era doveroso dopo la morte tragica avvenuta all'interno del CPR di Torino. Da quella morte, diverse persone però a Torino e non solo hanno manifestato la loro solidarietà nei confronti delle persone recluse all'interno dei CPR, ed hanno anche chiesto a gran voce che i CPR siano aboliti. Infatti, anche a Milano addirittura è stata svolta in questi giorni un'ispezione all'interno del CPR che si trova in via Corelli, una, diciamo, un'ispezione da parte di alcuni senatori, ma anche alcuni solidali della rete milanese No CPR e alcune associazioni. Quello che hanno notato e che poi hanno riportato, la testimonianza che hanno portato fuori anche questi senatori e che hanno rilasciato anche ai giornali, è piuttosto sconcertante. Infatti, fin dall'inizio uno dei senatori ha riportato che appena entrati i militari di guardia gli hanno mostrato la sala controllo e le telecamere di sorveglianza proprio in quel momento mostravano un ragazzo che si stava ferendo il corpo. Non si sa se non siamo riusciti, insomma, in base alle dichiarazioni, a capire se era un momento di protesta, se era un momento di autolesionismo, ma in ogni caso alle persone stesse che erano all'interno di appunto per questa ispezione all'interno del CPR, questa persona ha raccontato poi che non ce la faceva a spezzarsi le gambe lanciandosi dalla rete come altre avevano già fatto qualche mese fa. Quindi sicuramente era un tentativo in qualche modo per quelle persone di rischiare sicuramente la vita, ma per ottenere la libertà al di fuori. E le altre cose di cui hanno parlato queste tre ore di ispezione, le persone che sono state all'interno e che hanno visto 40 persone registrate all'interno, e che in tre ore di ispezione l'ambulanza per i casi gravi è entrata per ben due volte. Hanno parlato della impossibilità di parlare con le famiglie delle persone migranti trattenute. Hanno saputo che si possono utilizzare per 10 minuti al giorno per cercare di contattare i propri familiari un cellulare, e se in quel momento non risponde nessuno all'altra parte della linea, hai perso il tuo turno ed hai perso la tua possibilità. Sono negate qualsiasi tipo di videochiamata, e perché le videocamere dei cellulari sono coperte da un nastro adesivo. La motivazione è che nessuna immagine può uscire dall'interno di quella galera. Non si può filmare, non si può fotografare, ed questo è stato impedito anche alle persone che erano appunto all'interno per l'ispezione. Quindi in qualche modo ciò che avviene all'interno di quel CPR, ma anche degli altri CPR, è di fatto impossibile saperlo con certezza. In qualche modo può arrivarci solo dai racconti delle persone che sono all'interno. Nell'ispezione, diciamo, è stato ribadito il fatto che non esiste un regolamento, non esiste chiarezza riguardo appunto l'utilizzo dei cellulari personali, l'impossibilità delle videochiamate, così come anche il diritto di comunicazione con l'esterno. E nel momento in cui è stato richiesto da parte, tra l'altro, di parlamentari che erano lì all'interno, di verificare la documentazione che il CPR dovrebbe tenere obbligatoriamente all'interno, la risposta è stata che era impossibile vedere questi registri, in quanto non c'era nessuno dei gestori, questi registri non sono consultabili, sono chiusi a chiave, il personale che era presente non poteva avere accesso ai registri, per cui non si è potuto, neppure i parlamentari sono riusciti ad avere alcun tipo di dato. Hanno poi raccontato di aver incontrato un uomo chiuso a via Corelli da aprile, che ha due figli nati in Italia, lavora da 22 anni per le ferrovie dello Stato con un contratto a tempo indeterminato, quindi una persona, potremmo dire, regolare, se vogliamo utilizzare una dicitura dello Stato. Questa persona aveva avuto un litigio violento con la moglie, era stato recluso 5 giorni in carcere, dopo 5 giorni di carcere era stato liberato. Dopo la scarcerazione gli hanno detto che doveva necessariamente presentarsi in questura, e dalla questura lì lui è stato direttamente portato nel CPR. Quindi vicenda diciamo che dire fumosa e dire poco, e a cui appunto le persone che gestiscono il CPR non hanno dato alcun tipo di risposta. Ovviamente, come ben sappiamo, parliamo di questa vicenda non come caso singolo, ma per evidenziare che situazioni del genere ci sono non solo all'interno del CPR di Via Corelli, ma all'interno di tutti i CPR italiani. Continuiamo a parlare di CPR, questa volta ci spostiamo nel CPR di Torino, di cui abbiamo parlato molte volte, anche recentemente purtroppo per la morte di Mussa Balde. E, sono uscite diverse notizie da parte di associazioni che si interessano diciamo della questione dei CPR, e pur non condividendo completamente tutto ciò che è stato scritto, ci sono comunque molti passaggi che danno delle informazioni che è necessario conoscere, in questo caso nello specifico riguardo il CPR di Torino. Sappiamo bene che la morte di Mussa è accaduta all'interno di quello che viene definito l'ospedaletto, 12 gabbie per l'isolamento delle persone trattenute, che sono definite come posizione a disposizione degli ospiti con l'obiettivo di tutelare la loro dignità e la loro riservatezza. Questa è la dichiarazione ufficiale. In questo testo si spiega che però sono in realtà delle celle completamente vuote, sono celle in cui non entra neanche il sole, il personale sanitario non c'è, ci sono una sedia e un tavolino che sono piombati nel pavimento e c'è cemento ovunque. La porta della cella immette in un cortile che è qualche metro quadro, cortile recintato dalle inferriate e chiuso da una tettoia, per cui anche la visuale del cielo è solamente parziale. Si riprendono delle dichiarazioni del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Detenute Private della Libertà Personale, in cui si dice che il settore è costituito da un unico corpo fabbrica suddiviso in 12 locali di pernottamento separati anche nell'area esterna da alte inferriate. Si accede ai singoli locali attraversando un piccolo cortile di passeggio sovrastato appunto da alte cancellate in ferro chiuse. Una simile perimetrazione dell'area antistante all'ingresso della camera ha l'effetto di trasformare il cortile in una gabbia metallica, non rispettosa della dignità delle persone che vi abitano. Il cosiddetto ospedaletto è privo di spazi comuni. Le sistemazioni individuali sono caratterizzate da un piccolo spazio antistante la stanza, con un complessivo effetto del tutto analogo a quello di vecchie sezioni di uno zoo. Quindi queste sono parole di un rapporto che in realtà risale al 2016-2017 del Garante Nazionale. Vogliamo ricordare che in quegli stessi spazi purtroppo non è morto solamente Mussa Balde, ma anche Faisal, una persona di origini bengalesi che nel 2019, sin dall'arrivo all'interno del CPR, veniva collocato in ospedaletto in totale isolamento, nonostante la certificazione redatta dal medico interno diceva che risultava diciamo un paziente confuso, un paziente disorientato, quindi era necessario tenerlo in osservazione per qualche giorno e solamente dopo qualche giorno di osservazione stabilire se tenerlo oppure dichiararlo non idoneo a vivere all'interno di questo centro e quindi rilasciarlo. Dopo due giorni di osservazione Faisal appariva in base alle carte ancora confuso, ancora poco presente, ripeteva sempre le stesse parole confuse, rifiutava qualsiasi tipo di dialogo e nelle occasioni di colloquio con lo psicologo nei giorni successivi rimaneva in silenzio, non rispondeva neppure quando gli si offriva di vestirsi, gli si offriva di indossare le ciabatte. Infatti ha continuato a camminare scalzo per giorni e giorni, l'unica cosa che faceva era chiedere qualche sigaretta e lo psicologo annotava che i colloqui erano impossibili in quanto non parlava l'italiano, ma niente veniva fatto per poter porre le condizioni affinché Faisal potesse esprimersi ed essere compreso, per cui a luglio, appunto entrava a febbraio all'interno di quelle mura, è morto nella stessa cella numero 10 in cui era stato collocato, quindi quasi 5 mesi prima. E nella consulenza poi finale seguita all'autopsia si parlava di morte improvvisa cardiaca, dovuta probabilmente ad un'aritmia, ad una questione di aritmia, e da qualche tempo non dormiva più neppure nella stanza, dormiva per terra in quel minuscolo cortiletto antistante di cui abbiamo parlato anche prima, nella speranza forse di cercare di recuperare quanto più possibile, di perdere quanto più possibile quella condizione di isolamento, non riuscendoci. Questa relazione riguardante il CPR di Torino si parla anche molto di quello che è l'autolesionismo delle persone che sono all'interno. In realtà io non sono poi proprio sicura che tutti gli episodi che vengono citati come autolesionismo non abbiano in realtà alla base una protesta, una rivolta da parte delle persone che sono lì recluse. In ogni caso vengono portate come esempi tutta una serie di azioni che sono effettivamente sono piuttosto gravi, come scioperi della fame durissimi, una persona che in un mese aveva perso 17 kg, non parlava più, non camminava più, non trascorreva tutto il tempo sdraiato sul materasso. A questo sciopero della fame aveva fatto seguire anche uno sciopero della sete, si era ferito poi il braccio sinistro. E in questo tipo di condizioni è una persona che è stata poi successivamente rimpatriata. Si parla di tantissimi altri casi di persone che si sono fratturate da sole, gambe, piedi, braccia, si parla di ferite in varie parti del corpo, soprattutto gambe, soprattutto natiche, tutte persone che poi sono state rimpatriate, persone che si sono fratturate più volte, anche mano, gamba, nello spazio di pochi giorni, poche settimane, persone che hanno ingoiato la batteria del telefono cellulare, altre che si sono fatte del male chiudendosi le gambe e le braccia all'interno delle porte. E ovviamente, come ben sappiamo, persone che si sono tagliate, ma anche persone che si sono cucite più volte le labbra, persone che si sono ustionate parti del corpo, e alcune persone che l'hanno fatto scaldando l'olio, e l'olio l'hanno scaldato usando dei cavi elettrici recuperati in qualche modo chissà dove all'interno della struttura. Quindi in questo testo si portano, questi sono solo alcuni di questi esempi, ma ce ne sono anche molti altri, riportando anche le iniziali delle persone che hanno compiuto questi gesti. Ma come dicevo, non saprei neanche bene come definirlo, se è un autolesionismo che è causato effettivamente da una sofferenza così forte, che però non è definibile come una sofferenza aleatoria, mentale, un disturbo mentale o altro, ma è una sofferenza che è causata da azioni molto, molto chiare da parte dello Stato che ti rinchiude, degli enti che gestiscono questi posti rendendoli assolutamente inumani, dall'isolamento e da quant'altro. O non saprei se sono anche atti che servono per protestare, per avere comunque un'azione di presenza in qualche modo. Sì, certo, mi rendo conto che è un'azione di presenza forte e violenta, ma è comunque un'affermazione in qualche modo, per continuare a dire: io sono qui, sono un essere umano e non ho diritto ad essere trattato in questo modo. Possa apparire sconcertante, e infatti parliamo di questi episodi non, diciamo, con uno spirito voyeuristico, ma proprio per far comprendere la violenza che è in questi posti. Per quanto a noi magari possa sembrare sconcertante questa violenza, vorrei riprendere le parole del direttore sanitario della struttura, quindi del CPR di Torino, che ha rilasciato pubblicamente in un'intervista del 2018, commentando appunto queste forme di violenza autoinflitta, chiamiamolo autolesionismo. Ha dichiarato questa persona, che appunto è un direttore sanitario, quindi non fa parte delle forze dell'ordine, ma è una figura sanitaria medica che dovrebbe avere a cura e cuore nei confronti della cura delle persone. Ha detto che si tratta di gesti infantili, immaturi. Io non posso mandarli via perché si tagliuzzano o per altro, altrimenti tutti gli altri lo farebbero. La presa in giro non l'accetto. Io sono buono ed onesto, gli porto i confetti, le caramelle, tutti mi vogliono bene. Anche quando mi incontrano per strada mi salutano, però quando mi prendono in giro non lo accetto, dunque non li mando a casa in questi casi. Non hanno le palle. Io ho avuto parenti ammazzati in Calabria, eppure non mi drogo. Loro sono fragili e dunque ricorrono a questo. Sono taglietti da 4 soldi, se li fanno anche a casa. Stamattina ne ho visto uno che diceva di esserseli fatti dopo aver avuto una discussione con il padre. Lo fanno così, tanto per. Un altro che mi è capitato la settimana scorsa si è tolto 130 punti di sutura. Ma io dico, avevi proprio tempo da perdere. Sempre in questo che viene chiamato il libro nero del CPR di Torino, si parla anche dei cosiddetti moduli abitativi, in cui appunto sono le persone recluse nel CPR di Torino, che sono definiti come ovviamente indegni, le persone che sono all'interno sono praticamente blindate all'interno dell'area. Dell'area a cui sono stati assegnati, e sono totalmente isolati. Devono attendere il passaggio di un agente o di personale civile all'interno del centro per qualunque necessità, anche solo se devono accendere una sigaretta. Figuriamoci se hanno bisogno di un intervento sanitario, di un intervento salvavita o cos'altro. e non esiste alcun mezzo di comunicazione delle aree, per cui l'unica possibilità che hanno è sostanzialmente dare fiato ai polmoni il più possibile per richiamare leggermente l'attenzione. Gli spazi vitali che hanno a disposizione sono appunto questi moduli abitativi, sono circa 50 metri quadrati, bagni inclusi. All'interno di questi luoghi, di questo luogo, loro devono vivere, devono mangiare, devono dormire, ovviamente non da soli, in 50 metri quadri ci stanno ben in 7, immagino quanto siano comodi. E tra la stanza del letto e il locale bagno, per 7 persone, sempre lo ricordiamo, non c'è alcuna porta. Non ci sono porte divisorie all'interno del bagno, quindi non c'è nulla che separi due gabinetti alla turca dal resto, diciamo, del locale bagno, in cui ci sono due lavabi e una doccia. Quindi sostanzialmente chi va in bagno e magari a fianco chi sta facendo una doccia e così via, senza alcun tipo di separazione, né separazione dal resto della stanza. Quindi pochissimi metri separano questi sanitari così a vista dai letti. Non c'è alcun tipo di arredo, non ci sono assolutamente porte, non ci sono tende, non c'è nulla. Questa è la condizione in cui riescono a vivere. E se anche per qualsiasi appunto necessità hanno bisogno di urlare, ma addirittura non hanno neanche la possibilità di accendere o spegnere la luce dello stanzone, ogni sera si devono recare all'esterno fino al limite, diciamo, dell'area di assegnazione, devono urlare per poter avere l'attenzione degli operatori, che a quel punto forse spegneranno la luce all'interno degli stanzoni, consentendo alle persone di dormire. Non hanno diritto a consumare il pranzo o la cena seduti a alcun tipo di tavolo, e lo consumano direttamente negli stanzoni. Possono scegliere se consumarli a terra o consumarli sul letto, lo stesso letto in cui dormono. Ovviamente sappiamo bene che è da tempo che le persone trattenute lamentano il vitto, ma sia la poca qualità, per poca qualità non pensiamo al fatto che non è biologico ciò che mangiano, ma si tratta di cibo scaduto, marcio, puzzolente, e lamentano le persone trattenute anche le quantità minime. Tant'è vero che in tantissimi perdono tantissimo peso all'interno del CPR nel momento in cui vi vengono trattenuti. Ovviamente qualsiasi tipo di richiesta, anche minima, non viene assolutamente accolta. E se da un lato all'interno delle aree le forze dell'ordine non entrano, deve succedere un evento eclatante, dice una persona reclusa stessa, deve scorrere il sangue affinché le guardie entrino all'interno delle aree, la cosa che mi ha colpito particolarmente è che invece le visite in ambulatorio non possono avvenire se non in presenza del personale delle polizie. Quindi il personale sanitario del CPR deve svolgere il proprio ruolo, la visita, la loro funzione, cioè una visita medica, in presenza degli agenti di polizia. Tra l'altro presenza che non è occasionale, ma è sistematica. E è chiaro che si tratta di una prassi che non ha nessun tipo di motivazione, né di sicurezza né sanitaria, ma è una prassi che viene messa in campo probabilmente per evitare che si possa costituire alcun tipo di rapporto tra il personale sanitario e le persone recluse. Tra l'altro, un ambulatorio che sempre in questo libro si mette in evidenza come versi in uno stato di degrado assoluto, tant'è vero che non ha neppure l'autorizzazione da parte della SL territorialmente competente per poter essere un ambulatorio. Quindi parliamo di una situazione in cui in realtà tu entri in un ambulatorio per poter essere curato, molto probabilmente lo stato di abbandono è tale che rischi di contrarre qualche malattia contagiosa. Tra le altre cose di cui si parla ovviamente dell'utilizzo di psicofarmaci all'interno del CPR di Torino. Che un responsabile dell'ambulatorio del CPR ha, con un certo candore, affermato pubblicamente che all'interno del CPR i psicofarmaci si usano a litri, questa è stata la sua definizione, dicendo che 20 gocce di Valium o di Rivotril, che è un farmaco antiepilettico, non si negano mai agli ospiti che chiedono spesso qualcosa che li aiuti a dormire. In realtà numerose persone che sono state recluse nel CPR di Torino, ma anche in altri CPR, parlando della condizione che si vive all'interno, che diventa, trasforma, diciamo, la vita di un essere umano in una quotidianità, da una quotidianità normale, diciamo, ad un susseguirsi di minuti, ore e poi giorni che non hanno mai fine. Molte persone hanno sempre affermato che per forza sentivano il bisogno di assumere la terapia, perché la terapia, cioè appunto questi psicofarmaci a litri, perché altrimenti il tempo non passa mai. Una persona che è stata reclusa ha dichiarato: ma certo che dovevo prendere la terapia, dovevo prendere gli psicofarmaci, perché lì dentro, se non prendi la terapia, vai fuori di testa. Hai bisogno degli psicofarmaci sia per riuscire a dormire che per stare tranquillo. Quasi tutti li prendono. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Battiture, in cui avete solamente, purtroppo per voi, ascoltato la mia voce raffreddata. Prima di lasciarci, però, voglio ricordarvi i nostri contatti, il nostro indirizzo mail battiture@protonmail.com e i nostri social, che non vi ripeto sempre perché tanto siamo ovunque, basta cercarci, e il nostro canale Telegram. Vi invito però a contattarci per raccontarci di esperienze di reclusione o del mondo della reclusione, per segnalarci delle notizie che vi sembrano interessanti, per portare un contributo. I nostri microfoni resteranno sempre aperti per dare voce e spazio a chi vuole appunto portare un contributo sul sistema carcere. Ci risentiamo su www.radiasilo.it mercoledì prossimo dalle 19. Ciao. Se non vamo, fai sempre figlia e figliastro, ma se un mamma e femmina, con te non voglio venire, io per te non so niente, sono una perdita di tempo, ma se vuoi da cattena, dimmi che le chiave. Signor, crisi balena.